Siamo con Monica Maurer per parlare del film Off-Frame, aka Revolution Until Victory di Mohammad Yaqubi, che sarà al Cineforum Palestina il 7 giugno. Monica, ben trovata. Grazie. Allora, il film di Mohammad, forse dico due o tre cose sul regista. Sì. Lui è nato nell'81, ha fatto una serie di corti, ma ha anche prodotto dei film con la sua Idiom Film, che ha fatto la produzione di due film molto importanti. Uno è Infiltrators di Khaled Jalal nel 2013, altrettanto nel 2013, un'antologia di no, film di nove registi e registe giovani palestinesi che si chiama Suspended Time, che è sui 20 anni dopo Oslo. Questo film è una carrellata sulla l'immagine che la rivoluzione palestinese, cioè ai tempi del movimento di liberazione nazionale, cioè anni 60-70, l'OLP e registi solidali con la lotta di liberazione dei palestinesi hanno fatto. Centrale del film è raccolto in una frase di Elias Sambar, che è il rappresentante palestinese all'UNESCO, che si chiama: quelli che soffrono della invisibilità, per loro la camera è un'arma. Quindi il tentativo di Mohammed era di fare una riflessione sulla lotta popolare palestinese e sull'autopresentazione dei palestinesi nei film che sono stati appunto fatto della sezione cinema dell'OLP, che prima si chiamava Palestine Film Unit fino al 70, che era quando il quartiere generale era in Giordania. Poi dopo il 70, il settembre nero, il quartiere generale dell'OLP era in Libano, a Beirut, e lì si è formato il Palestine Film Institute, che era parte di quello che si chiamava Unified Information, che raggruppava la radio, un quotidiano, una rivista culturale, la sezione foto e anche film, appunto. Quindi questo film Off-Frame è andato per mesi, anzi anni, in ricerca in vari archivi in tutto il mondo per ritrovare opere di registi militanti del cinema rivoluzionario internazionalista, ma anche dei film palestinesi che erano tutti nell'archivio dell'Istituto di Cinema, che però nell'82 è stato bombardato durante l'invasione israeliana in Libano, in parte distrutto e in parte saccheggiato dai israeliani che sono entrati nella città. Importante per Mohammed, anche per noi, è che si ricostruisce una cornice storica all'interno della quale si è svolta la lotta, che rinnova la memoria in vita, a meditare criticamente su quanto è stata la narrazione palestinese in questi anni. Una frase cardine una frase che dice Arafat in una intervista del 71: noi eravamo rifugiati senza case, però la rivoluzione ci ha fatto combattenti per la liberazione della propria terra, ma anche per un embrio di un futuro Stato laico e democratico.